Dal 1961 AIFO, ispirandosi al pensiero di Raoul Follereau, cura i malati di lebbra. Con la formazione del personale e l'educazione sanitaria, AIFO rende le comunità locali protagoniste del loro sviluppo. Oltre 1 milione di persone nel mondo sono guarite grazie ad AIFO e 300.000 beneficiano oggi della sua azione. Chiama il numero verde AIFO 800-55-0303. Non esistono sogni troppo grandi. Aiutaci a sognare un mondo senza lebbra.